Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Il leone Fifone fu entusiasta di sapere che la perfida strega era stata sciolta da un secchio d'acqua, e Dorothy aprì subito il cancello della sua prigione, liberandolo. Andarono insieme al castello, dove per prima cosa Dorothy radunò tutti le socchi e disse loro che non erano più schiavi. Ci furono grandi festeggiamenti tra i gialli le socchi, per molti anni costretti a lavorare notte e giorno per la perfida strega, che li aveva sempre trattati crudelmente. Di questo giorno fecero una festa nazionale, celebrata allora e ancora, e passarono il tempo a banchettare e ballare. Se solo con noi ci fossero i nostri amici, lo spaventapasseri e l'uomo di latta, disse il leone, sarei assai felice. Non pensi che potremo salvarli? Domandò ansiosa la ragazzina. Possiamo tentare, rispose il leone. Così chiamarono i lessocchi e gli chiesero se avessero potuto aiutarli a salvare i loro amici, e i lessocchi dissero che avrebbero fatto con piacere tutto il possibile per Dorothy, che li aveva liberati dalla schiavitù. Così la ragazzina scelse alcuni lessocchi, quelli con l'aria più intelligente, e partirono tutti insieme. Viaggiarono per l'intera giornata e per un po' di quella successiva, finché non giunsero alla pianura rocciosa dove giaceva l'uomo di latta, tutto piegato e ammaccato. Accanto a lui stava la sua ascia, ma la lama era arrugginita e il manico spezzato. I lessocchi lo sollevarono delicatamente tra le braccia e lo riportarono al castello giallo, mentre Dorothy piangeva per la triste condizione del suo vecchio amico, e il leone aveva un'aria seria e addolorata. Quando giunsero al castello, Dorothy disse ai lessocchi: «Ci sono dei lattonieri tra voi?» «Sì, certo, e anche eccellenti», le risposero. «Portatemeli qui», disse lei. E quando arrivarono, con i cestelli dei loro strumenti, domandò loro: «Potete rimediare a quelle ammaccature e raddrizzarlo e saldarlo dove ce n'è bisogno?» I lattonieri esaminarono attentamente l'uomo di latta e risposero che pensavano di poterlo aggiustare e farlo diventare ancor meglio di prima. Così si misero all'opera in uno degli stanzoni gialli del castello, e lavorarono per 3 giorni e 4 notti, martellando e girando e piegando e saldando e lucidando e picchiettando le gambe e il corpo e la testa dell'uomo di latta, finché non ritornò come era prima e le sue giunture funzionavano meglio che mai. Certo, aveva un paio di toppe, ma i lattonieri avevano fatto un buon lavoro e, dato che l'uomo di latta non era vanitoso, quelle toppe non lo disturbavano affatto. Quando alla fine entrò nella camera di Dorothy, ringraziandola per averlo salvato, era così felice che pianse per la gioia, e Dorothy dovette asciugargli le lacrime con il suo grembiule per evitare che si arrugginisse. Piangeva moltissimo anche lei, però, ma per la gioia di rivedere il suo vecchio amico, e queste lacrime non serviva asciugarle. Quanto al leone, si passò la punta della coda sugli occhi talmente spesso che si bagnò tutta e fu costretto ad andare fuori in cortile e metterla al sole per asciugarla. Thank you. solo avessimo anche lo spaventapasseri con noi, disse l'uomo di latta quando Dorothy ebbe finito di raccontargli l'accaduto. Sarei davvero felice. Dobbiamo tentare di ritrovarlo, disse la ragazzina. Chiamò i Lessocchi per chiedergli aiuto e camminarono per tutto il giorno e parte di quello successivo, finché non giunsero all'alto albero tra i rami del quale le scimmie alate avevano sbattuto giù alla rinfusa i vestiti dello spaventapasseri. Era un albero davvero molto alto, con un tronco talmente liscio che non ci si poteva arrampicare. Ma l'uomo di latta disse: «Lo abbatterò e così prenderemo i vestiti dello spaventapasseri». Quando i lattonieri lo avevano riparato, un altro Lessocchi, un orefice, aveva preparato un manico d'oro e l'aveva saldato sull'ascia dell'uomo di latta al posto di quello rotto. Altri ancora avevano lucidato la lama fino a ripulirla dalla ruggine e farla brillare come fosse d'argento. Appena ebbe finito di parlare, l'uomo di latta si mise al lavoro e poco dopo l'albero cadde con un tonfo, facendo rotolare a terra i vestiti dello spaventapasseri. Dorothy li raccolse e li fece riportare dai Lessocchi al castello, dove vennero impagliati con della paglia pulita e fresca. E voilà! Eccolo lì, di nuovo lo spaventapasseri, più bello di prima, e che non la smetteva di ringraziarli per averlo salvato. Adesso che erano riuniti, Dorothy e i suoi amici passarono delle giornate molto allegre al castello giallo, dove trovarono tutto il necessario per star bene. Ma un giorno la ragazzina venne in mente la zia Em e disse: «Dobbiamo tornare da Oz e chiedergli di onorare la sua promessa». «Sì», disse l'uomo di latta, «finalmente avrò un cuore». «E io avrò un cervello», aggiunse lo spaventapasseri allegramente. «E io avrò il mio coraggio», disse il leone pensierosamente. «E io tornerò in Kansas», gridò Dorothy battendo le mani. «Oh, partiamo domani per la città smeralda». Decisero di fare proprio così. Il giorno seguente riunirono i Lessocchi e si congedarono. Ai Lessocchi dispiaceva molto che se ne andassero, e l'uomo di latta gli stava così simpatico che lo supplicarono di restare e regnare su di loro e sulla gialla terra dell'Ovest. Ma siccome avevano deciso di partire, i Lessocchi diedero a Toto e al leone un collare d'oro. Presentarono a Dorothy un bracciale tempestato di diamanti, e allo spaventapasseri offrirono una boccetta per l'olio d'argento con decorazioni in oro e incastonata di pietre preziose. Ognuno dei viandanti fece un bel discorso di ringraziamento per i Lessocchi e si strinsero la mano finché non gli fecero male le braccia. Dorothy andò alla credenza della strega per riempire di cibo per il viaggio il suo cestino e lì vide il cappello dorato. Se lo mise sul capo e sembrava fatto apposta per lei. Non sapeva nulla della magia del cappello dorato, ma vide che era bello, quindi decise di portarlo e di riporre il suo vecchio cappello nel cestino. Poi, pronti per il viaggio, si incamminarono verso la città smeralda. I Lessocchi li salutarono con tre ippipurrà e fecero loro i migliori auguri per il futuro. Yeah. ricorderete che non c'erano strade, nemmeno sentieri, tra il castello della perfida strega e la città smeralda. Quando i quattro viandanti erano andati alla ricerca della perfida strega, lei li aveva visti arrivare e aveva mandato le scimmie alate perché li portassero da lei. Siccome adesso non li trasportava nessuno, era molto più difficile ritrovare la strada tra quelle enormi distese di ranuncoli e margherite gialle. Sapevano, ovviamente, di dover andare ad est, verso il sorgere del sole, e si avviarono nella direzione giusta. Ma a mezzogiorno, quando il sole era sopra le loro teste, non sapevano più dove fosse l'est e dove l'ovest, ragione per cui si smarrirono in quelle enormi distese. Continuarono a camminare comunque, e quando calò la notte apparve luminosa la luna. Così si sdraiarono tra i profumati fiori gialli e dormirono come sassi fino al mattino, tranne lo spaventapasseri e l'uomo di latta, naturalmente. Il mattino seguente il sole era oscurato da una nuvola, ma ripresero ugualmente il cammino, facendo finta di sapere in quale direzione stessero andando. «Se continuiamo a camminare», disse Dorothy, «sono certa che prima o poi arriveremo da qualche parte». Ma passavano i giorni e non vedevano nulla oltre i campi gialli. Lo spaventapasseri iniziava a lamentarsi un po'. «Stiamo sbagliando strada», disse. «E se non ritroviamo quella giusta in tempo per arrivare alla città smeralda, non avrò mai il mio cervello». «Né io il mio cuore», dichiarò l'uomo di latta. «Mi sembra di non vedere l'ora di arrivare da Oz, e devi ammettere che questo viaggio è molto lungo». «Vedi», disse il leone Fifone con un sospiro, «non ho il coraggio di continuare a camminare per sempre, senza arrivare da nessuna parte». Allora Dorothy perse le speranze. Si sedette sull'erba e guardò i compagni, e loro si sedettero a guardare lei. E Toto, per la prima volta in vita sua, si rese conto di essere troppo stanco per rincorrere una farfalla che gli volava accanto. Così tirò fuori la lingua e si mise ad ansimare, e fissò Dorothy come per chiederle cosa fare ora. «Potremmo chiamare i topi di campagna», suggerì. «Probabilmente potrebbero indicarci la strada per la città smeralda». «Certo che potrebbero», esclamò lo spaventapasseri. «Perché non ci abbiamo pensato prima?» Dorothy soffiò nel fischietto che aveva sempre portato al collo da quando la regina dei topi glielo aveva dato. In un paio di minuti sentirono uno scalpiccio e molti topini grigi corsero verso di lei. Tra loro c'era la stessa regina, che chiese, con la sua vocina acuta, «Cosa posso fare per i miei amici?» «Ci siamo persi», disse Dorothy. «Puoi dirci dove si trova la città smeralda?» «Certamente», rispose la regina, «ma è molto lontana, perché è sempre stata alle vostre spalle». Poi si accorse del cappello dorato di Dorothy e disse, «Perché non usate la magia del cappello e chiamate a voi le scimmie alate? Vi porteranno alla città di Oz in meno di un'ora». «Non sapevo che ci fosse un incantesimo», rispose Dorothy sorpresa. «Come fa?» «È scritto all'interno del cappello», rispose la regina dei topi. «Ma se hai intenzione di chiamare le scimmie alate, dobbiamo scappare, perché sono birichine e si divertono a infastidirci». «Non mi faranno mica del male?» domandò preoccupata la ragazzina. «Oh no, devono obbedire a chi porta il cappello. Addio!» E scomparve dalla vista, seguita in grande fretta da tutti i topi. Dorothy guardò all'interno del cappello dorato e vide delle parole scritte sulla fodera. Questo, pensò, deve essere l'incantesimo. Così lesse le istruzioni con attenzione e si mise in testa il cappello. «Eppe peppe cacche», disse, in equilibrio sul piede sinistro. «Cosa hai detto?» domandò lo spaventapasseri, che non sapeva cosa stesse facendo. «Cio, cieo, ciao», disse, questa volta in equilibrio sul piede destro. «Ciao», rispose l'uomo di latta senza scomporsi. «Zi-zi-zi-zu-zi-zi-zic», disse Dorothy con entrambi i piedi per terra stavolta. Con queste parole finiva l'incantesimo e sentirono un gran chiacchiericcio e sbattere di ali che annunciava l'avvicinarsi delle scimmie alate. Il re fece un inchino a Dorothy e chiese: «Cosa ci comandi?» «Vogliamo andare alla città smeralda», disse la bambina, «e ci siamo persi». «Vi porteremo noi», rispose il re, e non appena finì di pronunciare queste parole, due scimmie presero Dorothy in braccio e volarono via. Altre presero lo spaventapasseri e l'uomo di latta e il leone, e una scimmia afferrò Toto e li seguì, anche se il cagnetto tentò di morderla. Lo spaventapasseri e l'uomo di latta inizialmente ebbero paura, perché si ricordavano del modo in cui le scimmie li avevano trattati la volta precedente. Ma videro che le loro intenzioni erano buone, perciò mentre volavano erano abbastanza sereni e si divertirono ad ammirare i graziosi giardini e i boschi sottostanti. Dorothy si ritrovò a viaggiare tranquillamente tra le due scimmie più grandi. Una di loro era il re stesso. Avevano formato una sedia con le mani e stavano attente a non farle del male. «Perché dovete obbedire all'incantesimo del cappello dorato?» domandò. «È una lunga storia», rispose il re con una risata, «ma abbiamo un lungo viaggio da affrontare e, se lo desideri, posso raccontartela per far passare il tempo». «Sarò lieta di sentirla», rispose. «Una volta», iniziò il capo, «eravamo un popolo libero che viveva felicemente nella grande foresta, volando da un albero all'altro, mangiando noci e frutta e facendo esattamente quello che volevamo senza dover obbedire a nessuno. Forse alcuni di noi erano troppo birichini a volte, scendendo tra gli alberi per tirare le code agli animali che non avevano le ali, dando la caccia agli uccelli e tirando noci a coloro che attraversavano la foresta. Ma eravamo felici, allegri e spensierati, e ci godevamo ogni minuto della giornata. Questo accadeva molti anni fa, molto prima che Oz scendesse dalle nuvole per regnare su questa terra. Allora, Al nord abitava una bellissima principessa, che era anche una potente maga. Tutta la sua magia veniva usata per aiutare il popolo e non faceva mai del male a chi era buono. Si chiamava Gaielet e abitava in un bel palazzo fatto di grandi mattoni di rubino. Tutti l'amavano, ma il suo dispiacere maggiore consisteva nel non trovar nessuno da amare, perché tutti gli uomini erano troppo brutti e stupidi per maritarsi con una regina così bella e saggia. Finalmente trovò un ragazzo bello e virile e saggio più dei suoi anni. Gaielet decise di sposarlo non appena fosse cresciuto e così lo portò al suo palazzo di rubini e usò tutti i suoi poteri per renderlo forte e buono e amabile, l'uomo ideale per ogni donna. Una volta cresciuto, Quelala, così si chiamava, si diceva fosse l'uomo migliore e più saggio di tutto il regno, e la sua virile bellezza era tale che Gaielet lo amava molto, e decise di affrettare i preparativi per il matrimonio. Mio nonno a quel tempo era il re delle scimmie alate che abitavano nella foresta vicina al castello di Gaielet, e il vecchio amava gli scherzi più di una buona cena. Un giorno, poco prima del matrimonio, mio nonno stava volando con un gruppo quando vide Quelala che passeggiava lungo il fiume. Indossava un ricco vestito di seta rosa e di velluto viola, e mio nonno pensò di vedere cosa sapesse fare. Dette il segnale e il suo gruppo volò verso il basso e prese Quelala, lo trasportò fino in mezzo al fiume e poi lo lasciò cadere. «Nuota, mio bel giovanotto!» gli gridò mio nonno, e vedi un po' se l'acqua ti ha macchiato i vestiti. Quelala era troppo saggio per non nuotare e non era stato affatto viziato dalla sua fortuna. Rise quando riemerse e nuotò fino alla riva. Ma quando Gaielet corse da lui, vide che la seta e il velluto erano stati completamente rovinati dall'acqua del fiume. La principessa si arrabbiò moltissimo e ovviamente sapeva chi era stato. Ordinò di portarle tutte le scimmie alate e disse che si doveva trattarle come loro avevano trattato Quelala e gettarle nel fiume legando loro le ali. Ma mio nonno supplicò molto perché sapeva che le scimmie sarebbero annegate con le ali legate e anche Quelala mise una buona parola per loro. Così Gaielet alla fine le risparmiò, ma a una condizione. Le scimmie alate dovevano, da quel giorno in avanti, fare per 3 volte ciò che gli comandava il padrone del cappello dorato. Questo cappello era stato un regalo di nozze per Quelala e si dice che la principessa l'avesse pagato con metà del suo regno. Naturalmente mio nonno e tutte le altre scimmie accettarono la condizione. Ed ecco perché siamo per 3 volte schiave del padrone del cappello dorato, chiunque sia. «E a voi cosa accadde?» chiese Dorothy, che si era molto interessata alla storia. «Essendo Quelala il primo padrone del cappello», rispose la scimmia, «fu il primo a comandarci. Dato che la sua sposa non ci voleva vedere, dopo averla sposata, ci chiamò nella foresta e ci ordinò di rimanere sempre dove lei non potesse mai più vedere una scimmia alata, cosa che facemmo volentieri perché la temevamo tutti. Questo fu il nostro unico compito, finché il cappello dorato non finì nelle mani della perfida strega dell'Ovest, che ci ordinò di rendere i suoi schiavi i lessocchi, e poi di mandare via Oz dalla terra dell'Ovest. Adesso il cappello dorato è tuo, e per 3 volte avrai il diritto di comandarci. Whenever I want you around, yeah, all I gotta do is call you on the phone, and you come running home. That's all I gotta do. And when I wanna kiss you, for me whenever you want me to go. I'll be here, yes I will, whenever you go. You just gotta call on me, yeah. You just gotta call on me. And when mentre il re delle scimmie finiva di raccontare la sua storia, Dorothy guardò verso terra e vide le verdi e splendenti mura della città smeralda. Fu meravigliata dalla velocità con cui avevano viaggiato con le scimmie, ma era felice di essere giunta alla fine del viaggio. Le strane creature poggiarono con delicatezza i viandanti dinanzi ai cancelli della città. Il re fece un inchino a Dorothy e volò via, velocemente, seguito dal suo gruppo. «È stato un bel volo», disse la ragazzina. «Sì, è un modo rapido per risolvere i nostri problemi», rispose il leone. «Per fortuna ti sei portata dietro quel meraviglioso cappello». Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.